Al di là quindi delle notizie della settimana di questi giorni, no, questa volta ci concentriamo su un concetto, una dimensione, come lo vogliamo definire, in cui siamo immersi completamente con la nostra vita, con il tempo storico, il tempo individuale. E appunto, lo sto già pronunciando, il concetto sul quale mi piacerebbe oggi avere le vostre riflessioni è quello di tempo, perché in realtà forse non esiste un, come si potrebbe dire, un termine, un concetto che abbia più valenza di questa, nel senso che potremmo dire multisemantico, quindi con tanti significati, multiconcettuale, perché si muove a tanti livelli, in tanti ambiti, il termine, il concetto di tempo. Ci può essere in senso storico, ovviamente, il tempo, in senso cronologico, quello che più tradizionalmente intendiamo, ma anche in senso filosofico, quanto i filosofi in tutti i periodi, in tutte le epoche hanno riflettuto, speculato sul concetto di tempo, anche a livello teologico, astronomico. C'è anche il tempo atmosferico, di cui magari parleremo col colonnello Giuliacci. C'è poi il tempo strettamente individuale, il tempo sociale, persino nell'arte o nella musica, il concetto di tempo, no? Nella musica del tempo che dà il ritmo della melodia. Insomma, al di là di tutti questi possibili accezioni, significati, che finisce che veramente ci avventuriamo con questa barchetta al largo del mare, chissà dove finiamo, diventa un po' complesso. Ma voi che senso, che significato date al tempo? Non sembra che il tempo sia sempre più accelerato, che viviamo un po' nella società dell'accelerazione? Riuscite a avere tempo individuale, tempo libero? Lo sapete, tra l'altro, che una recente ricerca, anzi britannica, ha rivelato che per esempio in famiglia ormai i componenti di una famiglia passano del tempo insieme per 45 minuti al giorno. Voi pensate di quante ore è fatta la nostra giornata e di quanto invece abbiamo poi a disposizione per stare con le persone che amiamo, insomma. Quindi parliamo di tempo, il vostro modo di vivere il tempo, e se è vero che si sente che il tempo è sempre più accelerato. Vi ricordo il numero verde per intervenire, che è 800 24 00 24, ve lo ripeto, 800 24 0024. E vorrei subito, questa volta, interpellare subito all'inizio della puntata la carissima Valeria Della Valle. Valeria, ci sei? Sì, ci sono. Ecco qua. Buongiorno. Valeria Della Valle, che è sociologa, che è linguista, stavo pensando alla sociologia del tempo, ecco. Giusto. Che è linguista, docente di linguistica italiana alla Sapienza di Roma, all'Università di Roma. E ti volevo chiedere, tanto per iniziare e per darci un minimo di direzione, Valeria, sì, che dal dizionario, tu ne hai curati i dizionari, l'ultimo mi pare quello della Treccani, che definizione viene data del tempo? Cerchiamo di darci almeno così dei riferimenti. Vocabolario, che di solito è un punto di riferimento, sì, per capire di che cosa si tratta. Ora devo fare una brevissima premessa. Se dovessi leggere la voce tempo, tratta dal vocabolario Treccani che ho avuto la fortuna di coordinare, non basterebbe tutta la tua trasmissione, perché sono 11 colonne. Non basta il tempo, insomma. Per più di 5 pagine. Questo per dire quanto la definizione della parola tempo, in tutti i suoi significati, in tutte le sue sfumature, è presente nella lingua italiana. Fatta questa premessa, mi guarderò bene dal leggere le 11 colonne, ma mi limiterò a leggere l'attacco col quale la parola tempo viene introdotta. Naturalmente sto citando un vocabolario, insomma, il più ampio, non come numero di voci, ma come estensione delle voci, sì, e che quindi è un vocabolario che dà molto al lettore. Leggo, quindi la voce è tempo, e si tratta dell'intuizione e la rappresentazione della modalità secondo la quale i singoli eventi si susseguono e sono in rapporto l'uno con l'altro, per cui essi avvengono prima, dopo o durante altri eventi, vista volta a volta come fattore che trascina ineluttabilmente l'evoluzione delle cose, da qui per esempio l'espressione lo scorrere del tempo, o come scansione ciclica e periodica dell'eternità, a seconda che vengano enfatizzate l'irriversibilità e caducità delle vicende umane, o l'eterna ricorrenza degli eventi astronomici. Insomma, e allora, molto ecco complesso. Questo avvio dà modo proprio di capire quanto l'ampiezza semantica poi di questo termine sia esteso. Questo, dicevo, è solo l'avvio. Un assaggio. E poi magari gli ascoltatori ci aiuteranno a dare le loro definizioni di tempo, il loro vissuto anche esperienziale, diciamo, del tempo. Con Valeria Della Valle poi ci sentiamo verso, diciamo, puntata inoltrata, Valeria, e tu rimani vigile e ascoltaci durante come la trasmissione. Ti lascio le tue attività e poi tra poco ritorneremo. Ci ha dato una prima definizione, quindi molto articolata, è difficile riassumere, molto complessa, ma sappiamo, abbiamo detto, che il tempo ha questa accezione multisemantica, multiconcettuale, si articola in tante dimensioni, in tanti ambiti. Però adesso facciamoci un po' guidare anche da chi di tempo se ne occupa da tempo, scusate il bisticcio di parole, che è Carmen Leccardi. Carmen, buongiorno. Ecco, Carmen, che navigava un po', diciamo, in un tempo così un po' sospeso, e dicevo, dove è finita Carmen Leccardi? Eccola qui, Carmen, che è docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca, con delega per le problematiche di genere, di cui si occupa da tempo, e studia da sempre il tempo da un punto di vista sociale, sociologico, quindi per questo, dicevo, se ne intende. Ha appena scritto, pubblicato Sociologie del Tempo per La Terza, un libro molto interessante, molto articolato, ed è vicepresidente per l'Europa del gruppo di ricerca sui giovani dell'International Sociological Association. Ha diretto sino all'anno scorso una rivista britannica che si chiama proprio Time and Society, quindi Tempo e Società. Carmen ha pubblicato vari saggi, tra cui appunto questo, che è molto attinente ovviamente al tema che voglio trattare oggi con voi, che è appunto quello del tempo. È anche il titolo stesso che ho scelto per questa trasmissione: non ci sono più le mezze stagioni. Alla fine si gioca un po' sul tempo nella sua valenza meteorologica, no, se vogliamo stare strettamente a significato proprio letterale, non ci sono più le mezze stagioni, perché effettivamente da un punto di vista meteorologico sembra che siano sempre più estese da una parte il caldo che si dilata e poi il freddo, e non ci sono più tanto primavera-autunno. Ma poi è chiaro che il significato che volevo dare, così più, diciamo, profondamente o anche ironicamente, che le cose cambiano, no? Col passare del tempo, non sono più quelle di una volta, infatti non ci sono più le mezze stagioni. Carmen Leccardi, allora, se tu dovessi dire invece, abbiamo sentito dal dizionario, al vocabolario italiano, quale può essere una definizione del tempo. Dicevo prima che si cala in tante dimensioni, da quella appunto storica, cronologica, la speculazione filosofica, teologica, astronomica, in tanti ambiti. Tu invece, dal punto di vista sociologico, che definizione daresti del tempo? Ma guarda, il punto di avvio di questa analisi che ho proposto nel libro è proprio legata al fatto che il tempo nella vita sociale ha un significato particolare, vale a dire diventa uno strumento di ordine della vita sociale, di sincronizzazione tra di loro delle varie attività, e diventa anche, come dire, una sorta di ordinatore delle nostre azioni, per cui ciascuno di noi vivendo, agendo come diciamo cittadino o cittadina, entra in contatto con le istituzioni sociali e dunque entra in contatto con l'ordine temporale di cui queste istituzioni sono portatrici. Ovviamente, entrando in contatto con questo ordine, possono nascere anche un po' di scintille, perché no? Non è detto che ciascuno di noi si senta esattamente in sintonia con questi ordini temporali. Per lo più no, direi proprio di no. No. Direi proprio di no. E in particolare, magari ne parleremo nel corso di questo incontro di oggi, i più giovani, coloro che appunto si trovano a crescere in questo clima che ha una caratterizzazione oggi dal punto di vista del tempo, questo nostro clima sociale, è un clima sociale particolarmente accelerato. Vale a dire, tutti noi dobbiamo fare le cose più in fretta, correre di più, essere più efficienti, risparmiare tempo, fare più cose in una giornata, ed anche, se vuoi, essere sempre in forma rispetto a questo tempo così accelerato. Certamente, insomma, non ci possiamo permettere di lasciarci andare, di rilassarci un attimo anche dal punto di vista psicofisico e fisico in particolare, perché ecco, il culto dell'efficienza è una cosa molto interessante, un concetto stimolante che trovo nel tuo libro, questo del culto dell'urgenza, per l'appunto. Tutto sembra ormai urgente, su nulla ci si può soffermare un attimo di più, anche quando sarebbe necessario, importante, utile. No, il culto dell'urgenza. Tra l'altro, il sottotitolo del libro di Carmen Leccardi, il titolo è Sociologie del tempo, è Soggetti e tempo nella società dell'accelerazione. Secondo voi viviamo davvero in una società dell'accelerazione, e come la subite o la vivete comunque voi? Io vorrei cominciare a dare subito spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori su appunto un concetto che sembra così banale, scontato, ma in realtà davvero condiziona fortemente la nostra vita. Il tempo ci dà anche un po' il valore della nostra esistenza. Sappiamo che abbiamo, tra l'altro, un tempo delimitato, no? Non sappiamo fino a quando esattamente, ma grosso modo possiamo immaginarlo. Questo ci dà modo forse di cercare di essere consapevoli di come utilizzarlo, questo tempo, di non sprecarlo, di sapere che non abbiamo un'infinità, e forse ci spinge anche ad apprezzare ciò che di buono, che di bello c'è, dei valori, della bellezza, dell'intelligenza, e a disprezzare, se volete, anche quello che insomma nel nostro tempo poco ci sta ed è male, ed è qualcosa che invece ci rovina in parte la nostra vita. A volte sono anche delle piccole cose. Ecco, secondo me il tempo ci dà anche proprio questo valore e il senso dell'esistenza. Sentiamo Ferdinando da Mariano Comense. Pronto? Ecco, Ferdinando, siamo tutti orecchie. Le volevo dare il mio concetto di tempo. Volentieri. È un dono indeterminato che ci viene concesso dalla Divina Misericordia all'atto del nostro concepimento. E per quanto riguarda la regolarizzazione di questo tempo, ci viene data anche l'intelligenza per sfruttarla. Siamo noi poi che stabiliamo, dando priorità, facendo riflessione, come regolare il tempo. Tutto qui. E tu, Ferdinando, il tempo, per esempio il tuo tempo individuale, quando hai del tempo libero, come lo utilizzi? La maggior parte del mio tempo libero io lo trascorro in silenzio. Silenzio, riflessione. È la migliore medicina per far fronte a tutto quello che ci siamo creati nel corso degli anni, il correre, l'affannarsi e il non concludere niente, perché poi corriamo e alla fine non abbiamo concluso niente. Io cerco di sfruttare quell'intelligenza che mi è stata donata per regolare il mio tempo. Ferdinando, ma dimmi una cosa, tu ho incuriosita, eh? Beh, certo, sicuramente. Poi sempre i vostri interventi aprono tante finestrelle nella mia testa, mi piacerebbe sapere di più. Poi il tempo appunto è limitato, però ti volevo chiedere, tu posso chiederti quanti anni hai, Ferdinando? 57. Ti sembra che anni fa, non so, 20-30 anni fa, il tempo scorresse più lentamente? Perché gli uomini erano più riflessivi, regolavano meglio il loro tempo. Quindi sei d'accordo con Carmen Leccardi che siamo un po' nel tempo dell'accelerazione, una società dell'accelerazione? Siamo noi che vogliamo accelerare una cosa che ha bisogno di spazio e di tempo. Il nostro tempo noi lo dobbiamo regolare noi, lo dobbiamo regolare con la nostra intelligenza, attraverso le scelte giuste, non quelle sbagliate, attraverso i meno affanni, perché la vita scorre comunque. Siamo noi che dobbiamo cogliere il tempo della vita e trasformarlo in un tempo consumato bene, non sprecato. Grazie Ferdinando e buon tempo. Ciao. A te allora. Ciao. Ciao Ferdinando. Carmen Leccardi, fra le altre cose, fra gli spunti che ha buttato lì Ferdinando, c'è anche quello per esempio delle priorità, no? Il tempo ci costringe, quando più è compresso più ci costringe anche a pensare a quali possono essere le priorità, le cose da fare, no, prima, certo, delle altre, visto che non ne abbiamo tantissimo di tempo a disposizione. Certo, guarda, volevo, prima di entrare nel merito di questa questione della priorità, sintonizzarmi un momento sulle riflessioni dell'ascoltatore, sì, che parlava poco fa a proposito del perché è accaduto che negli anni più recenti si assistesse tutti quanti, chi più o meno attivo, chi più o meno passivo, a questa accelerazione. Sì. Ecco, io vorrei sottolineare in particolare le cause economiche, nell'economia sempre più mondializzata e finanziarizzata, direi, del nostro tempo, andare veloci, vivere le transazioni economiche in tempo reale, costruirle in tempo reale, diventa fondamentale. Quindi è soprattutto uno spirito del tempo, anche economico, che ci spinge verso l'accelerazione e ci spinge appunto poi, e vengo alla tua domanda, a costruire delle priorità. E queste priorità purtroppo vanno esattamente nella direzione opposta a quello che diceva l'ascoltatore, dico sfortunatamente, vale a dire tolgono a noi il tempo del silenzio, della meditazione, della creazione di un tempo personale e ci impongono questi imperativi quotidiani della fretta, della sintonizzazione su ritmi che naturalmente sono adeguati a quelli economici e dunque sono sempre più rapidi. Per cui anche alcune cause del nostro attuale malessere, io ritengo, sono generate dal fatto che non abbiamo sufficientemente tempo per noi stessi, tempo da dedicare anche a queste attività, chiamiamole così, dello spirito. E ci mancherebbe, infatti. E stavamo parlando, vi stavo spiegando che è puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, legata a un concetto fondamentale per la nostra esistenza, senza quello non ci sarebbe probabilmente neanche la vita, il tempo. Abbiamo detto che di significati ce ne sono tantissimi, molto, molto articolati, molto complessi, però noi cerchiamo un po' di limitarci, diciamo, al senso del, che già è molto, al senso del tempo individuale e del tempo sociale, di come sono accelerati i nostri ritmi di vita rispetto al passato. Io, se devo dire molto personalmente, ecco, giusto per fare un esempio, i miei genitori dicono che quando eravamo piccole, noi figlie, addirittura a Natale si mettevano a prendere la carta da pacchi, quella marrone di una volta, e a colorarla prima ancora di fare i pacchetti. C'era tutto il tempo di disegnarla, di renderla più originale, più creativa, di personalizzarla. Adesso è una cosa assolutamente impensabile, giusto per fare un esempio. O prima si cucinava, è vero che anche i ruoli donna, uomo, naturalmente c'era una grossa asimmetria che in parte è ancora rimasta, ma per fortuna insomma le cose almeno nel mondo occidentale si stanno evolvendo, no? Ma si passavano delle ore a cucinare, adesso tutto, anzi si compra al supermercato ciò che è pronto cotto e giusto da mettere magari in padella o addirittura subito a tavola, perché non c'è tempo. Il numero verde per dire qual è la vostra esperienza personale del tempo che vivete, se è vero che sentite questa accelerazione e come la vivete, perché magari qualcuno la vive anche in modo positivo, Numero verde 800 24 00 24. Vorrei sentire il parere di Anna da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno Anna. Allora, io a proposito del tempo dei bambini e del fatto di arrivare prima o dopo rispetto a certe esperienze che uno fa nella vita. Come la maternità. A parte quello, ma una discussione feroce con una amica che aveva una figlia, sa che adesso alle elementari si può essere iscritti a scuola anche se si compiono gli anni entro, diciamo, l'aprile dell'anno scolastico, entro i 6 anni dell'anno scolastico. Allora, il tema era se avendo, vabbè, i miei figli sono nati a fine anno, ma avendo un figlio che è nato per esempio in marzo, se il fatto di andare a scuola a 5 anni, quindi compierne 6 durante l'anno scolastico, gli fa guadagnare o gli fa perdere un anno? Perché secondo me glielo fa perdere, gli fa perdere un anno, arriva prima a quell'esperienza a cui arriverebbe comunque prima o poi, e però si brucia, per così dire, immaginando un tot di anni di vita, un pezzo dei momenti più belli che essere bambini. Quindi uno spazio ludico più dedicato a sé, alle sue esperienze, che non essere messo subito così un po' intruppato, tra virgolette, a scuola. Questo vuoi dire, Anna? No, prima. E quindi mi piacerebbe sapere il parere della vostra ospite, Carmen, in proposito. Anna, intanto mi fa molto piacere che mentre stai viaggiando guidi tu? Ecco, c'hai cioè l'auricolare ovviamente, no? Certamente, ecco. ho già perso 5 punti, quindi lo porterò sempre. Mi raccomando, che poi dopo perdi tempo in caso a dover, proprio il tempo, dover rifare l'esame della patente, queste cose qui non vale la pena. Ecco, diciamo. E tra l'altro non bisogna andare troppo veloce, in modo imprudente, per guadagnare del tempo, ritorniamo e giochiamo un po' su questa cosa. Poi si guadagna al massimo 5 minuti, vero, quando è la fine. Anna, no, ma trovo molto, molto, però mi rimane una curiosità, hai detto che è stata una discussione feroce, alla fine vi siete picchiate oppure siete arrivate? No, per modo di dire, nel senso che non se ne siamo venute a capo, cioè, ecco, non, ognuno restava sulla sua posizione. Si perde o si guadagna del tempo andando a scuola un anno prima? È tutto, dipende da che aspettative uno ha chiaramente della vita, no? Se certamente vuole arrivare prima in una visione, come dire, competitiva dell'esistenza, certo che arrivare laureati un anno prima, io non riesco a capire dove sia il vantaggio, francamente, non è misterioso. Anna, sento la tua voce giovane, nonostante ciò diciamo che non sei troppo omologata, diciamo, questa culto dell'urgenza, ecco, da un tuo punto di vista. Invece adesso che i genitori invece per esempio tendono, fra le altre cose, non solo a iscrivere il prima possibile a scuola, ma anche a 2000 corsi, allora esce da scuola, va un'ora di lì, poi dopo lo andiamo a prendere e va un mezz'ora dall'altra parte, poi le lezioni di piano, poi il karate, poi la corsa, poi dopo il calcetto, poi... cioè, quindi tu non sei di questo tipo. Anna, ti ringrazio moltissimo e intanto chiedo che idea si è fatta Carmen Leccardi, come la pensa su questa questione, per esempio, del perdere o guadagnare tempo a scuola scrivendosi prima o scrivendosi dopo. E devo dire che Anna, fra le altre cose, l'ascoltatrice, ha introdotto anche un altro piano di discussione, che è quello del tempo cronologico esteriore oggettivo che effettivamente c'è, no? Come quello dell'età anche anagrafica, e quindi del tempo che scorre, e poi il piano, per esempio, molto individuale, relativo, personale, no? Nel senso che per uno il tempo in quel senso è guadagnato, per un altro invece è perso, perché gli levi un momento, un periodo di vita che potrebbe godersi così con più leggerezza. Che dici, Carmen? Ma dunque, guarda, intanto ringrazio Anna perché il suo intervento è stato molto ricco di spunti e di stimoli. Partirei da questo dato. Proprio nel nostro linguaggio ci accorgiamo di parlare di tempo come si parla di denaro solitamente: lo perdiamo, lo guadagniamo, lo investiamo, appunto lo possiamo risparmiare. Il tempo è denaro, diceva Zio Caperone. È veramente questa metafora, che non è sempre stata una metafora dell'umanità, ecco, è importante sottolinearlo, è particolarmente e specialmente da qualche secolo a questa parte, dalla rivoluzione industriale in avanti, diciamo, che noi siamo abituati a rivolgerci col pensiero al tempo come se fosse denaro. E questo naturalmente è anche generatore di una serie di svantaggi per noi, perché c'è sempre una contraddizione tra questa visione economica, quantitativa, diciamo frammentata del tempo, c'è una contraddizione con invece un'altra dimensione, che è il tempo qualità, il tempo come vita, il tempo come valore, come dicevi tu prima, come significato. E dunque, che cosa accade ai bimbi che vengono sollecitati magari dalle famiglie iscrivendoli a scuola un anno prima? Ecco, vorrei portare una testimonianza in questo caso anch'io autobiografica, perché sono stata una bambina che è andata a scuola a 5 anni. Io poco di più, sì. Ecco, ma la cosa interessante, lo dicevo per Anna, è che in questo caso era la bambina, non i genitori, che volevano a tutti i costi incominciare ad andare a scuola. Quindi per me, bambina, la vera felicità è stata quella di non continuare i miei giochi fuori dalla scuola, ma per così dire continuare i miei giochi dentro la scuola, perché il mio accostarmi con interesse allo studio era un gioco per me. Ecco, quindi volevo dire, da questo punto di vista, occorrerebbe sentire il pensiero dei bambini, perché sempre più, come sappiamo, i bambini sono considerati soggetti di diritti, lo sono a tutti gli effetti, anche il loro modo di vivere il tempo è individualizzato. Ci sono bambini più sognatori, bambini meno sognatori, bambini che sono già abilissimi a 5 anni, per esempio, con i computer, tutti noi ne abbiamo esperienza. Certo. Ecco, quindi alcuni di loro sono già sintonizzati su una maggiore velocità rispetto ad altri. Dunque io direi, se il bimbo ha davvero desiderio e la mamma e papà possono capirlo stando con lui di andare a scuola a 5 anni, perché vietarglielo? Se invece è un desiderio dei genitori di fargli guadagnare tempo, perché deve essere competitivo, prima laureato, per così dire, nell'immaginazione, beh, allora direi che sicuramente è il caso di opporsi. Stefano, adesso sentiamo da Pordenone, sempre il numero verde che vi ricordo, se volete fare le vostre riflessioni sul tempo, lo scorrere del tempo, l'accelerazione del tempo, come lo viviamo, anche per esempio per quanto riguarda l'amore, anche questo è un argomento e i sentimenti che mi piacerebbe trattare con Carmelo Cardi e con voi, no? C'è tempo per viversi le persone, i propri sentimenti, i propri affetti. 800 24 00 24, dicevo, Stefano da Pordenone, eccoci. Buongiorno. Qua Stefano, buongiorno a te. Buongiorno. E io ho sentito parlare del tempo in termini quantitativi, economici, e sono comunque, secondo me, termini assolutamente soggettivi, perché ognuno vive il suo tempo. E non riesco a trovare una merce di scambio per il tempo che non sia il tempo stesso. E a me capita spesso, sovente, siccome sono vivo da solo e ho tempo per gli altri, di aiutare persone a fare questo o quello, e troppo spesso mi chiedono di ricambiare il mio tempo con denaro o più o meno sì, sempre con denaro. Invece io vorrei chiedere alla gente di ricambiare tempo con tempo, ed è una cosa molto difficile da avere. Una specie di banca del tempo, ecco, che è una cosa anche che mi pare sia stata istituzionalizzata nel tempo, qualche associazione è stata creata. Adesso è non stata so che creata, fortuna. Ma non è cresciuta. Infatti, non ha avuto grande fortuna. No? Il problema è proprio che il tempo è talmente soggettivo che non è una merce di scambio. E invece dovrebbe esserlo. A me dispiace molto per questo. Stefano, tu vorresti che poi ti dessero indietro a te del tempo, dedicandosi per esempio a cose che dipende, ti riguardano, sì, oppure avere, ad altri? Avere un'attenzione, un pensiero, piccole cose. Io credo che partendo dalle piccole cose potremmo risolvere dei grandi problemi. Su questo siamo abbastanza d'accordo, ma è difficile poi farlo capire a chi sta, diciamo, un po' più in alto, anche se dovremmo cominciare da noi stessi. Stefano, si parte sempre dalla base, no? Certo. Ti ringrazio moltissimo. Grazie. Ti auguro allora di avere sempre questo tempo, di riuscire a ritagliartelo questo tempo a disposizione anche per gli altri. Poi continuiamo anche su questi vari spunti, vedete, dai tanti punti di vista è vero che vengono fuori, come sempre, delle angolazioni soggettive anche sul modo di vivere il tempo. Dedichiamoci del tempo oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, dedicata al tempo, al nostro modo di viverlo in quella che ormai è la società dell'accelerazione, come anche la chiama Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura all'Università Bicocca di Milano, con delega alle problematiche di genere e che si occupa da sempre dello studio del tempo da un punto di vista sociale e sociologico, e ha pubblicato di recente Sociologie del tempo per la Terza. Stiamo discutendo, appunto, abbiamo detto all'inizio, abbiamo fatto questa premessa, che il tempo è un concetto multidimensionale, multiconcettuale, multisemantico, con tanti significati e declinazioni, però noi cerchiamo di stare proprio sul nostro vissuto individuale e anche sociale, perché non viviamo come delle monadi isolate, no? Sul cucuzzolo, ma facciamo parte di una comunità sociale sempre più grande, dalla nostra famiglia, dal quartiere, alla città, alla nazione e poi al mondo, ovviamente. Quindi inevitabilmente siamo condizionati da come il tempo è strutturato e organizzato a livello mondiale, ancora prima sociale. 800 24 00 24 per le vostre riflessioni sul tempo da ogni punto di vista, perché abbiamo anche ovviamente rilevato, come anche abbastanza presumibile, insomma, che ognuno, pur dentro a un circuito enorme, lo vive anche con una dimensione propria molto soggettiva, anche se poi c'è quel tempo cronologico oggettivo invece che è quello che vale per tutti, come il passare, no, dei minuti, delle ore, dei giorni, dei mesi, degli anni, quindi anche dell'età anagrafica che procede, del tempo storico inesorabile che va in avanti, però appunto poi ognuno con la propria dimensione. Allora, sentivamo prima gli ascoltatori, l'ultimo è stato Stefano, che parlava di uno scambio di tempo, Carmen Leccardi. Anche questa cosa, no? È particolare, sembra che non abbia avuto fortuna per quanto riguarda la banca del tempo di cui si era parlato negli ultimi anni. Sì, dunque è interessante il fatto che anche quando si parla di banca del tempo, che è un esperimento importante che è stato messo in piedi un po' in tutta Europa in quest'ultimo periodo, si faccia comunque riferimento a quella dimensione del tempo come denaro, perché la banca per definizione è il luogo che è legato al denaro. E dunque, di nuovo noi ci troviamo di fronte al fatto che anche in questo contesto di scambi comunitari di quote di tempo, la concezione dominante del tempo, quella che avanza, che pervade tutte le nostre vite, è quella di tipo economico. Giustamente però l'ascoltatore sottolineava i limiti di questa concezione economica ed economicista del tempo. Io vorrei ricordare da questo punto di vista che la realtà del tempo è anche quella che ci rimanda alla diseguaglianza in chiave sociale, vale a dire non tutti hanno la stessa quantità di tempo a disposizione, così come non tutti hanno la medesima quantità di denaro a disposizione, per continuare nella metafora tempo uguale denaro. Ma vorrei dire di più, soprattutto oggi ci troviamo di fronte ad una condizione tale per cui ci sono normalmente soggetti che hanno molto tempo a disposizione, ma hanno anche poca disponibilità di agire nel mondo, e per contro ci sono soggetti che hanno poco tempo a disposizione e molta possibilità di agire nel mondo. Vale a dire, sempre più oggi avere tanto tempo non significa avere molto mondo sotto gli occhi, per così dire. Piuttosto avere molto tempo significa molte volte non avere a disposizione la possibilità di agire. Così accade per molti, per esempio penso a coloro che sono pensionati e non hanno la disponibilità di una consistente quota di reddito, per cui si trovano ad avere molto tempo a disposizione e anche pochi modi per usarlo in maniera significativa. Per contro, la figura del manager oggi come figura emblematica di colui, soprattutto colei molto di rado, infatti, più colui, che ha pochissimo tempo a disposizione e anche possibilità invece economiche per usare il tempo. Quindi c'è comunque alla base una sperequazione tra avere mondo, per così dire, e avere tempo. Adesso sentirei sempre il numero verde che potete utilizzare liberamente, 800 24 00 24, Teresa da Genova. Teresa, come scorre il tempo a Genova, Teresa? E allora, bello, però vorrei essere sintetica tanto per non farvi perdere tempo. Tanto per rimanere in tema di tempo, anche se a me piace parlare ed ascoltare. Comunque, se è vero, come lessi tempo fa, che l'unico vero capitale, e quindi parlando di capitale si parla comunque sempre di denaro, è il tempo, e che non dovrebbe essere sprecato, è anche vero che forse per un'esperienza personale vissuta male, forse perché dopo i 50 ci si rende conto veramente di quali sono le priorità. Ecco, io devo dire questo, mi sono resa conto che il fatto di avere due orecchie, per esempio, una lingua solo, significa poter ascoltare più di più, quindi ascoltare più i figli che magari hanno bisogno di te, un amico che in quel momento ti fa una domanda ha bisogno di te. E io lo sbaglio, che feci quando ero più giovane sicuramente, davo priorità ad altre cose, tipo i piatti da lavare, la casa da pulire in ordine, la sigaretta magari, a parlare con un'amica. E allora dopo ti rendi conto di quante cose hai perso, perché quando un bambino in quel momento ti fa una domanda, è in quel momento che ha bisogno di te, i piatti possono rimanere lì. Cioè, mi sono resa conto che in effetti ci sono cose che non si possono procrastinare. Questo dovuto, ripeto, a vicissitudini brutte, passate, malattie di mamma, malattie mie. Però mi sono anche resa conto, felicemente, che dopo i 50 anni ho accettato il fatto che non fare niente, cioè leggere un libro, non avere lo stress di dover per forza uscire al sabato, però ho accettato il fatto, scusi, sono un po' emozionata, ma no, ma stai dicendo delle cose molto interessanti, Teresa. Ho accettato il fatto che non fare niente può significare fare molto, perché per esempio il non fare niente, magari per molti può essere non fare niente, per me è giusto adoperare le due orecchie per ascoltare magari giusto la vicina che ha bisogno, oppure proprio non fare niente, stare lì, leggermi un libro e poter dire finalmente no magari a un invito che non so soltanto che 10 anni fa avrei, per la quale 10 anni fa avrei trovato 1000 scuse per dire no, ecco. E quindi non so se mi sono forse spiegata. Si è spiegata benissimo, sì. Ecco, mi rendo conto che però la colpa, siamo sempre lì, se vogliamo parlare di colpe, a questo punto sarebbe meglio trovare le soluzioni e non colpe. Però mi rendo conto che non posso, per esempio, sgridare, perché ormai è a 30 anni. Però quando chiamo mio figlio che vive a Milano e chiedo Matteo, oggi cosa fate? Oh, mamma, oggi no, perché oggi stiamo in casa a fare le pulizie. Ecco, la prima battuta che mi verrebbe da dire: figlio mio, ma esciti e guardati un fiore, le pulizie, ci sono cose. Scusa Teresa se ti interrompo in questa riflessione poetica che stai facendo, però un figlio maschio, visto che ancora le discriminazioni ci sono, che si dedica il sabato alle pulizie, io lo apprezzo moltissimo e spero che sempre più uomini siano anch'io lo apprezzo. Era giusto così un inciso, oltretutto, Gioia, oltretutto è vero, anche perché devo dire sono cose a cui che chiaramente gli ho insegnato io. Complimenti. E non gli ho insegnato che non esistono lavori da uomini, a meno che ci sono delle cose genetiche che comunque non cambieranno mai. Beh, però, questo non ha a che fare con i diritti e i doveri comunque, no? Esatto, però ci sono delle cose interne che comunque abbiamo proprio geneticamente che non cambieranno mai, però se tu da piccolo glielo insegni che comunque lavare i piatti possono lavarli benissimo gli uomini, se a me insegni a mettere una lampadina posso bene, ci sono altre cose. Comunque, al di là di questo, quando io sento Matteo che mi dice no mamma non esco oggi perché faccio oggi la domenica faccio le pulizie, io subito mi viene da rispondere, però poi mi guardo allo specchio, mi dovrei prendere le mani, il viso tra le mani e dire Teresa, guardati perché è così, perché tu eri così, nel senso che io ripeto la casa linda, la casa in ordine. Ora, quando anche spiego a lui che comunque ci sono cose che si possono demandare, giusto, altre no, uscire, dare scusi, un pizzicotto nel sedere la fidanzata, perché sono attimi che poi non vengono più. E adesso, carezza, sì. Adesso non lo capirebbe. E quindi mi trattengo e dico: beh, Matteo, se sei gratificato del fatto di fare le pulizie, per carità, naturalmente ognuno però spende il tempo io come dico, crede. Niente, è cresciuto come io ero, cioè come. Però non spero che aggiusti il tiro man mano, insomma, col tempo, col tempo, certo, certo che lo capisca senza dover passare brutte situazioni, ma che lo capisca gradualmente, vabbè, e per tempo. Sono comunque delle cose che, ripeto, uscire anche soltanto guardare un fiore, guardare una bella giornata, dire oh oggi che bella giornata, è tempo e guadagnato, poi ti lavo domani. Teresa, sì, sei stata molto molto molto chiara. Io mi preoccupo sempre quando qualcuno dice sarò breve, perché in genere non è mai così, però hai detto tante tante cose interessanti con molto calore e molta intensità, quindi ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato, Teresa, e vorrei subito girare allora a Carmen Leccardi alcuni almeno dei concetti, dei tanti che ha espresso Teresa, no? Ha parlato nuovamente di priorità, avevamo brevemente accennato prima alla questione delle priorità che il tempo ci costringe ad avere quando è sempre più accelerato, e poi l'ozium, anche questo, no? Il fatto che forse come dicevi tu è anche però un privilegio di pochi, o forse Teresa col tempo è riuscita con lo scorrere del tempo e dell'età è riuscita a ritagliarselo, a capirne l'importanza, e anche il fatto che ha detto dopo 50 si capiscono certe cose, quindi diventa anche una questione generazionale, no? Probabilmente oltre che di sesso, di genere, cioè uomini, donne e giovani e adulti o più maturi nella differenza di viversi il tempo, giusto Carmen? Certo. Teresa ha effettivamente sottolineato tutti i temi che tu menzioni e io vorrei a mia volta riprendere alcuni dei fili che lei ci ha proposto per mettere in luce anzitutto il fatto che i tempi delle generazioni contano. sia perché naturalmente generazioni diverse possono avere priorità diverse a seconda del tempo storico in cui vivono, sia perché ci sono dei ruoli sociali che si modificano. In questo senso, per esempio, il richiamo che Teresa faceva a suo figlio e al fatto che suo figlio usi parte del suo tempo per le pulizie rimanda proprio a questo nuovo equilibrio dei tempi tra uomini e donne che è all'ordine del giorno oggi. Vorrei dire che magari non tutte le situazioni sono così idilliache, fortunate come quella che menziona Teresa, vale a dire non tutti i giovani uomini sono così solerti dal per punto nulla. Di vista delle responsabilità anche legate domestiche, alla famiglia. Certo. Alla famiglia, però mi sembra che sicuramente alcune cose stiano cambiando e si vada verso una ridefinizione di quei tempi della cura che sono così centrali nella nostra società. Dunque, anche perché senza quelli non si sopravvive, non sopravvive non solo il nucleo familiare inteso tradizionalmente, ma anche i rapporti alla fine, in genere, no? Interpersonali. Ma certamente, quello è uno dei grandi motivi di conflitto nella vita di coppia oggi, come viene diviso, suddiviso il lavoro di cura, anche perché le donne sempre più hanno questo bisogno di vedere riconosciuti anche all'interno della famiglia i loro diritti all'autonomia, all'autodeterminazione. Certo. E ecco, vorrei sottolineare un altro punto tra quelli che menzionava Teresa, il diritto al tempo per sé, quello che lei diceva, quel tempo per fare niente, quel tempo dell'ozium appunto, quel tempo della riflessione o quel tempo dedicato ad un'attività che ciascuno di noi può privilegiare sulla base della sua propria soggettività. Ebbene, quel tempo per sé è quello che è più raro nella vita delle donne adulte ed è proprio una conquista, probabilmente anche una conquista che si raggiunge in là, un po' in là con gli anni per le donne, perché negli anni in cui i bambini sono piccoli, in cui le cure della famiglia sono più assillanti e gli anni soprattutto in cui l'investimento nella carriera, che è ormai comune per le donne, è più forte, ecco che davvero il tempo per sé è una merce, tra virgolette, rarissima. A tal punto che nelle ricerche che per esempio io ho condotto emerge che le donne cercano di ritagliare piccoli spazi di tempo per sé di mattina presto o piuttosto a notte fonda quando gli altri componenti della famiglia dormono. Sempre Roberta Giordano con voi ancora per un pochino di tempo e ospite oggi questa puntata speciale monotematica legata al tempo è Carmen Leccardi, docente di sociologia della cultura all'Università di Milano Bicocca con delega per le problematiche di genere e ha studiato da sempre insomma la dimensione sociologica, sociale del tempo e ha scritto di recente Sociologie del tempo per l'appunto per la Terza e con un sottotitolo molto eloquente che è Soggetti e tempo nella società della accelerazione, perché in questa siamo. Al numero verde 800 24 00 24 c'è adesso Renzo da Reggio Emilia. Renzo. Sì, cerco di essere breve. No, io ora mi preoccupo subito. Esatto. No, io parto dalla mia esperienza giovanile. Quando ero un ragazzo tutto correva molto più lentamente perché probabilmente io vivevo intensamente quello che mi stava volando addosso. Dopo purtroppo si è costretti a fare delle scelte di vita e si entra in tutto un altro meccanismo, quello del non vivere intensamente la propria vita. Secondo me bisognerebbe avere il coraggio di fare delle scelte forti e per uscire da quel meccanismo dove il tempo è denaro, dove chi si ferma è perduto, eccetera, eccetera, e riuscire e cercare nella vita la strada che ti porta a vivere più intensamente possibile il tuo tempo. Ritengo, senza volerla mettere in politica, che abbia vissuto molto più tempo Ernesto Che Guevara nei suoi 30 anni che io nei miei 57. Beh, certo, la sua è stata una vita intensissima. Su quello. Saluto. Renzo, aspetta, con la tua simpatia volevo chiederti un'altra cosa almeno. Perché ritieni da più maturo di vivere meno intensamente? Perché sei più oberato di responsabilità? Perché ti sembra che il tempo a disposizione sia meno anche da un punto di vista vista cronologico di quello che ci sarà davanti? Perché secondo me non ho avuto il coraggio di fare delle scelte che fossero adeguate a te. Sì, perché il tempo l'abbiamo scandito noi con l'orologio, però vedo che i minuti prima di entrare a lavorare sono brevissimi e i minuti per prima di uscire da lavorare sono lunghissimi. Perciò bisognerebbe avere il coraggio di scegliere quella strada che ti rende i minuti molto più lunghi per poter vivere più a pieno la tua vita. Ma dimmi una cosa, è possibile che in Emilia Romagna, per esempio, stavo pensando in questo momento anche questa cosa, che è vero che siamo tutti dentro questo impazzito Luna Park, però a seconda delle regioni del mondo, ma anche proprio delle regioni italiane, io già quando vado verso la Toscana io sento che i tempi sono comunque più rilassati e poi man mano scendere, no? Che dici, Renzo, dalle tue parti? Tu vivi lì e dici, io non credo che il tempo rilassato sia comunque tempo vissuto a pieno. Ritengo che comunque per vivere il tempo lento bisogna andare controcorrente, farsi portare dalla corrente viaggia molto più veloci. Comunque si vive in qualsiasi posto. Grazie Renzo. Prego, grazie molte. Tanto. Buon tempo. Salve. A te, buona intensità anche. Allora, adesso due interventi sintetici che sono quello di Valeria Della Valle, che abbiamo sentito all'inizio, ci ha dato questa preziosa definizione del tempo dal vocabolario italiano, linguista della Sapienza di Roma, e tra pochissimo anche il colonnello Giuliani, che da un punto di vista invece meteorologico. Valeria, quindi ci saranno anche tante, dal punto di vista tuo linguistico, sì, di linguista, tante espressioni, no, del nostro, sì, parlare legate al moltissime tempo. Anzi, addirittura direi che proprio le diverse concezioni del tempo che sono emerse durante la trasmissione sono rappresentate nei modi di dire della nostra lingua, perché ce n'è un grande numero che rispecchia questo il gusto per un tempo lento, per la volontà di farlo passare quasi vuoto, no, prendendone addirittura le distanze, senza impegni. Ne nomino qualcuno: ammazzare il tempo, dare tempo al tempo, guadagnare tempo, ingannare il tempo, perdere tempo, pigliare il proprio tempo, eccetera eccetera. Però ce ne sono altrettanti che invece sono nella direzione opposta, quindi riflettono proprio l'ansia del tempo che passa, che scorre troppo veloce, che non ci basta mai, e ne cito anche qui solo qualcuna: avere il tempo contato, stringere i tempi, aver fatto il proprio tempo, non mettere il tempo in mezzo, fino a quel il tempo e denaro che oggi abbiamo è stato citato volte. Tante volte. Ma per finire con qualcosa di meno ansiogeno riferito al tempo, vorrei citare, mentre facevo la ricerca di questi modi di dire, ne ho trovato uno che è proprio passato di moda, quindi credo che sia così un po' ottocentesco e che piacerà al colonnello Giuliacci: venire a tempo come un'acqua d'agosto. Ah. No? Ecco, che mi sembra lo chiediamo, insomma, allora. Non comune, ma indubbiamente piacevole in queste giornate afose. Grazie mille, Valeria. A te, arrivederci. Grazie, buon tempo a te. Ti piace, colonnello Giuliacci, questo modo, sì, di dire? Bellissimo, perché è veramente calzante, no? Chi non aspetta la pioggia in agosto perché ci dà per scontato che non ci siano, che siano state poche piogge, che abbia avuto la meglio per molti giorni, quindi uno sente la necessità dell'acqua per i prati, per stemperare un po'. Ma senti, colonnello, mi viene in mente che spesso, come diceva Valeria, per ammazzare il tempo o per imbarazzo, quando ci si trova soprattutto tra persone sconosciute o che si conoscono nell'ascensore, subito ci si mette a parlare del tempo, ma in senso meteorologico, no? Quindi, beh, è un discorso questo, di conversazione. Certo, per me ovviamente non vale, però constato che è vero, è così, è veramente così. Ma io direi che, sai, tra il tempo time e il tempo weather, cioè il tempo visto all'orologio e quello meteorologico, c'è una grande affinità negli ultimi anni, perché il tempo meteorologico, a causa di questo surriscaldamento del pianeta, vive un momento di instabilità. Anche lui corre veloce, nel senso che da un momento all'altro cambia nell'arco di poche ore, cambia nell'arco più rapidità rispetto al passato. Ah, sì? Da un giorno all'altro, qualcosa di vero c'è. C'è una maggiore variabilità e questo rispecchia un po' anche il nostro stile di vita, che è un correre da mattina alla sera, ci si dimentica, e direi in questi due aspetti, guarda caso, il tempo meteorologico e il tempo vissuto da noi con questa fretta di andare, fa sì che ci siano delle affinità o perlomeno dei punti di incontro. E mi spiego, si va così di fretta che magari, pur essendo il cielo coperto, ci si dimentica di portare via l'ombrello, oppure si organizza una festa all'aperto, si prepara tutto, si prepara, si lucida la macchina, si prepara il tavolo ben imbandito, ma ci si dimentica di chiedere magari, ma per caso pioverà questa sera? Si ricorda all'ultimo momento, molti amici mi interpellano un'ora prima, ma ormai che cosa posso fare? Dico, devi subire il tempo, no? Voglio dire, ecco, questo vivere veloce fa sì che spesso ci si dimentichi di informarsi sul e di tempo. Chiedere al colonnello Giuliaci e giù un bel temporale. Grazie, certo. Colonnello Giuliaci. Comunque sia, come sempre a te, un tempo solare e un tempo intenso, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore prima. Grazie, un augurio grazie. Anche a te, lo meriti, e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao colonnello, carissimo colonnello Giuliaci. E vorrei sentire ancora brevissimamente Enrica da Binzano, Rinzago. Sì. Posso chiedere? Buongiorno. Dov'è Rinzago? Dunque, Inzago è un paese, c'è una... 25 km da Milano. Hai ragione, scusa, avevo visto una lettera davanti, non c'entra. È un bellissimo paese che si affaccia sulle sponde del Naviglio, quindi è un paese dove si può godere del tempo. Bene. Enrica, ti chiedo solo questo, sì, è una voce molto suadente, andrei avanti con te qualche ora, però abbiamo proprio un minuto, tu riesci in un minuto a dirmi? Semplicemente questo, sì. Io volevo riprendere il discorso della Banca del Tempo. La Banca del Tempo in Sago esiste, io sono iscritta alla Banca del Tempo e la Banca del Tempo è veramente un grosso valore da far conoscere, quindi tenevo molto a recuperare questo senso che mi sembrava un po' di calo di tensione sul valore della Banca del Tempo. La Banca del Tempo è il luogo, secondo me, dell'uguaglianza sociale, dove il valore del tempo, che è quello che ci è dato, insomma, quando siamo nati e poi chissà quando poi questo dono finisce, è questa la vera, il vero luogo di eguaglianza, lo scambio del tempo. Io volevo dire ancora questo, che sono amministratrice di questo comune e noi abbiamo indetto la giornata del tempo ritrovato, quindi lavoriamo molto su questo senso. Bene. Per esempio io appoggio, credo anche Radio 24 ne ha parlato, dell'associazione Vivere con Lentezza, che ogni anno a febbraio promulga, diciamo, la giornata internazionale della lentezza. E quindi c'è tutto un sentire, un agire su questo discorso proprio del tempo. Grazie Enrica, grazie di essere stata breve e molto, molto incisiva. Grazie mille Enrica, grazie, del buongiorno. Tempo dedicato. Allora, mentre ringrazio Gigi Borghi, l'assistenza in regia, e Giacomo Spunta alla parte tecnica, chiedo a Carmen Leccardi, siamo in chiusura, ci sono credo 34 secondi, se vuoi fare una conclusione. Sì, guarda, credo che l'ultimo intervento abbia proprio riportato il nostro timone al centro della questione che è il tempo e delle questioni che il tempo solleva, in particolare dal punto di vista sociale, vale a dire l'eguaglianza sociale, come noi possiamo pensare anzi ripensare il tempo socialmente in modo tale che questo tempo garantisca sempre maggiore equità e sempre maggiori opportunità equivalenti a tutti i soggetti, donne e uomini, giovani e meno giovani. Penso in particolare agli anziani e alle donne anziane che con il tempo hanno veramente un contenzioso aperto, io credo. Grazie mille Carmen Leccardi. Vi ricordo soltanto che domani, come Radio 24 e insieme alle principali radio italiane, seguiamo, io sarò a San Siro insieme anche a Deborah Rosciani, seguiremo questo concerto Amiche per l'Abruzzo, è appunto un grande concerto di solidarietà, tutto al femminile, un centinaio di cantanti, tutte donne, è veramente un evento storico. A questo punto però qui chiudo perché il tempo se n'è andato, ma ne avremo altro ancora. Roberta Giordano vi saluta e mi raccomando, prendetevi un po' di tempo.